onda araba. Di una terra in rovina, di una terra in rovina, onda araba. Di una terra in rovina, di una terra in rovina, onda araba. Di una terra in rovina, di una terra in rovina, araba. Di una terra in rovina. Ci sveglieremo tra diamanti e sete di lino, ori e rubino, ori e rubino. Che una realtà che poi chissà cos'è, di un sogno la realtà, ma sogni che sai cos'è, non capisci neanche la realtà, o se sono reali già adesso o non lo saranno mai. Che si fottano i guai, che si fottano i guai. Onda araba, di una notte di fuoco chissà. Onda araba, di una notte di fuoco chissà. Onda araba, il fumo di porpora, onda araba, di un fiume di porpora.